palla ovale. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Partiamo ovviamente dalla pallovale, dal rugby, come sempre ogni sabato, poi divagheremo. In questo sabato che si è aperto con una notizia terrificante come quella, l'avrete sentita anche nelle edizioni precedenti dei giornali radio, cioè la morte di Federico Luzzi, tennista, anche azzurro, era stato anche numero 92 del mondo, 28 anni. Una settimana fa era in campo, poi a Olbia, domenica scorsa si è sentito male, un attacco febbrile, è tornato a casa, è stato ricoverato, la prima diagnosi era quella di una broncopolmonite, invece leucemia fulminante, ed è morto oggi. Una notizia agghiacciante questa per lo sport e non solo. Però per l'appunto partiamo dal rugby, dal campionato che è in corso, che è tornato innanzitutto dopo la parentesi delle coppe. È tornato, si sta giocando e vedo anche francamente dei risultati in divenire, ma sorprendenti, come questo di Venezia, dove c'è il Casinò di Venezia che sta vincendo 26-3 contro Cammi Calvisano. Poi c'è Viadana in vantaggio sul Futura Park Roma 17-9. Si è giocata ieri ed è stata vinta dalla Carrera Petrarca la sfida con il Gran Parma 28-16, quindi c'è Treviso con un piccolo vantaggio sulla Capitolina 18-15 a Roma, mentre per uno dei match forse più interessanti della giornata, vediamo come finisce a Venezia, ma il più equilibrato e interessante della giornata, si gioca a Parma tra l'Overmac e il Femici Zeta Rovigo. Andiamo subito lì da Fabrizio Furlotti, giusto per capire come va. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Come sta andando? Dunque, sta andando che a questo momento il numero 15 del Rovigo sta tentando un calcio piazzato, ma il risultato è a favore appunto del Rovigo per 10-6, dopo un primo tempo conclusosi sempre in vantaggio per il Rovigo per 10-3, al quarto del secondo tempo il Rovigo ha accorciato le distanze. Ecco qui parte il calcio ed è in mezzo ai pali, quindi il Rovigo allunga il vantaggio portandosi sul 13-6 qui a Parma. È una partita comunque brillante, molto molto molto molto combattuta, ci sono avuto anche momenti diciamo di scintilla in campo, ma è perché il Parma forse non riesce a trovare le migliori trame della propria filosofia di gioco, anche perché il Rovigo è abbastanza cinico, ben ordinato in difesa, cinico al punto giusto, e ha saputo colpire già dal 12° del primo tempo con una bellissima meta di Parma. Ripeto, partita apertissima, in questo momento scocca il 19° minuto, quindi magari ci sentiamo più tardi. Se è possibile, magari qualche altro collegamento, perché sì, veramente sì, la partita è entusiasmante. Ma lo faremo senz'altro, caro Fabrizio. Il risultato finale, naturalmente, tutti i risultati finali, compreso quello di Venezia, che è sempre più sorprendente nelle proporzioni. Casinò di Venezia 29, Cammi Calvisano 3. Cambiato poco invece sugli altri campi, Montepaschi Viadana che allunga sul Futura Park 17-9, quindi sempre il parziale di prima, cioè Almaviva Capitolina 15, Benetton Treviso 18, poi vi do anche i parziali della Serie B di calcio, ma questo poi quando cominceremo a divagare. Adesso restiamo sul rugby per salutare e ringraziare, cominciare a respirare aria azzurra perché ci siamo, l'8 di novembre c'è Italia-Australia a Padova e già la stiamo aspettando. Salutiamo e ringraziamo, dicevo, Carlo Orlandi dallo staff azzurro, allenatore degli Avanti Azzurri. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Carlo Orlandi che sta guardando la stessa partita che ci raccontava Fabrizio Furlotti a Parma, se non sbaglio, no Carlo? Sì, sono qui a Parma. Senti, partiamo subito dal campionato. Cosa ci sta dicendo, o meglio, cosa vi sta dicendo questo campionato in chiave azzurra? In chiave azzurra c'è di buono che i giocatori di interesse nazionale stanno giocando sempre con una continuità, tranne per sfortuna quelli che hanno dei piccoli problemi. Ci sta dicendo però ancora un pochettino che il ritmo partita è un pochettino più basso di quello che abbiamo all'estero. Tra giocatori in chiave azzurra che giocano con continuità, leggevo anche un'intervista di Marcato, peraltro ingrassato tra virgolette di 4 kg, però sta trovando spazio a Treviso da apertura. C'è stato il raduno a Roma, avete lavorato, ci puoi dire se lo vediamo in chiave azzurra più come 10 o più come 15? Ma l'abbiamo provato molto di più come 10, pur utilizzandolo ancora come 15, però insomma, come hai detto precedentemente, lo stanno utilizzando bene a 10, dunque proviamo a portarlo avanti insieme a Treviso anche in questo ruolo. Mentre rapporto di lavoro su Raduno degli Azzurri, che novità vedremo con Australia 8 novembre, Argentina 15 novembre, Pacific Island 22 novembre, cosa ci farete vedere in chiave azzurra di nuovo, Carlo? Da quello che si è visto in questi due mini raduni, ero abbastanza tranquilli perché il carico fisico non potevamo farlo perché è in mezzo al campionato. Faremo vedere una squadra che proverà a fare un gioco di movimento semplice, si spera di avanzamento anche col piede, perché abbiamo visto delle nuove regole, bisogna passare anche con un gioco a piede fatto bene, però non calzare la palla per perderla. E speriamo di vedere una squadra con la voglia che ha durante gli allenamenti, la stessa voglia anche durante le partite, perché sono tre incontri veramente difficili. Carlo, invece, per quanto riguarda nello specifico il tuo ruolo, l'assenza di Castro Giovanni sarà ancora, è stato nostro ospite Martin 7 giorni fa, insomma ci diceva: non vedo l'ora di entrare in campo e spaccare tutto, però il rientro è ancora lontano. Prima di tutto auguro a Castro di rimettersi presto per giocare e per far bene quello che sa fare. Ovvio che per lo staff azzurro è un giocatore veramente importante che sta mancando, però ci saranno gli altri che cercheranno di fare anche quello che deve fare lui. Carlo, per chiudere sempre e rimango sul fronte delle interviste che ho letto negli ultimi giorni, tra l'altro anche Paris è stato nostro ospite poco tempo fa, Capitan Paris. Ecco, sul discorso che si faceva prima, cioè vediamo i nostri azzurri che giocano con continuità però nel nostro laghetto, nel nostro stagno. Anche a noi, Capitan Paris diceva, insomma, ci fosse un progetto serio per fare un club azzurro, per partecipare alle coppe, un progetto importante, eccetera, io tornerei di corsa e come me tutti gli altri a lavorare in Italia. Insomma, arriveremo a vedere quel giorno, secondo te? Ma guarda... Si sente parlare con più frequenza di selezioni, franchise nuove, insomma, c'è lo studio un qualcosa che va verso questa direzione. Ovvio che partire da niente, prepararsi è una cosa molto difficile e molto lunga, perché tutti gli scozzesi, inglesi, gallesi, loro si basano e partono già dalle province, che è una grossa base di partenza, invece noi non abbiamo questa struttura. È sicuramente un passo che si farà, non sappiamo i tempi, non sappiamo ancora i modi, però fa bene, anche perché io penso che se avessimo delle strutture di questo tipo, 2, 3, 4, non so quanti possano essere, io penso che il nostro lavoro possa essere fatto con più continuità verso i nostri giocatori e insieme a dei super club si farebbe qualcosa di buono. Anche in chiave azzurra, naturalmente, anche in chiave azzurra. Ma io penso che la nazionale italiana è il trattore che trascina tutto, però non dobbiamo dimenticare che non ci sono solo 30 persone che giocano a rugby in Italia, cioè, certo. C'è per fortuna una base che si sta sempre più allargando, però noi in questo momento dobbiamo parlare del vertice. Grazie Carlo, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Carlo Orlandi, dunque. Palla ovale. Rapido sguardo di parziale a partire dal rugby di nuovo, dunque Overmac Cari Parma 6, Femici Z Rovigo 20, partita su cui torneremo più tardi alla conclusione con Fabrizio Furlotti, Casinò di Venezia 29, Cammi Calvisano 3, Montepaschi Viadana 17, Futura Park Roma 12, Almaviva Capitolina 15, Benetton Treviso 18 e già che ci siamo allarghiamo il tiro e vi do anche i parziali della Serie B. Vicenza in vantaggio sul Sassuolo, risultato questo importante per la vetta della classifica e per il Vicenza naturalmente che sta risalendo, quindi 1-0 per il Vicenza, gol di Sgrigna su rigore, quindi c'è il Bari che conduce 2-1 sul Grosseto con doppietta di Caputo, il Cittadella in vantaggio 1-0 ad Ascoli, Avellino Frosinone 0-0, il Piacenza in vantaggio a Treviso 2-1, il Livorno che conduce sulla Rimini con gol di Rossini in chiusura di primo tempo 1-0, il Parma che sta vincendo a Mantova 2-1, Zanonino Lucarelli, Peccaridi per il Mantova, stesso risultato e stesso parziale a Modena con il Brescia in vantaggio 2-1, quindi Salernitana ancora 1-1, Triestina Albino Leffe 1-1, questi parziali. Adesso vorrei, ricordandovi i nostri contatti 80024 0024, per le vostre telefonate, messaggi 349-238-6666. Cominciare a introdurre l'argomento calcio aspettando il derby di questa sera e aspettando Inter-Genoa di domani. Oggi hanno parlato un po' tutti, abbiamo diverse voci da farvi ascoltare freschissime. Cominciamo da José Mourinho, capolista, e dalla sua idea sull'avversario di domani, l'interessantissimo Genoa di Gasperini. D'accordo che non si gioca a Marassi, dove il Genoa è finora imbattibile e imbattuto, ha sempre vinto, in trasferta le cose sono andate un po' meno bene, però è una squadra che gioca un gran calcio, a mio parere. Sentiamo cosa ne pensa Mourinho. Noi pensiamo a noi, è più importante come giochiamo noi, sappiamo come vogliamo giocare, ma ovviamente sempre preoccupa un po' l'avversario. Penso che la struttura, la filosofia, i principi di giochi di Genoa sono molto stabili, sono una squadra che sa come gioca, che gioca di un modo che solo è possibile giocare quando si lavora molto bene. I giocatori sono giocatori con qualità, per una squadra giocare così sicuramente l'allenatore è un bravo allenatore. Mi piace molto come gioca il Genoa. Io veramente non penso che vanno a cambiare il suo modo. Se lo fanno, lo fanno, non è un problema per noi. Ma penso veramente che giocherà con la sua filosofia di gioco. Chissà, blocco un po' più basso, chissà con un pensiero un po' più difensivo. Ma sicuramente questi tre bravi giocatori che hanno in attacco non cambieranno questo, sicuramente. Giocare con i tre difensori più i due ala, non penso che va a cambiare. Mi piace molto come gioca questa squadra. E dunque siamo almeno in due. Io e Mourinho su questo punto siamo d'accordo, ma credo non si faccia fatica ad essere d'accordo sul fatto che il Genoa, insomma, sta giocando anche un gran calcio, trascinato da Diego Milito, che pure ha parlato in questa vigilia. Allora lo ascoltiamo subito, la stella numero 9, la stella del Genoa. Giocare a San Siro sicuramente non è facile, però andiamo là a fare una bella prestazione, a fare un risultato. Dopo sappiamo e rispettiamo l'Inter perché sono una squadra fortissima che va in prima classifica, prima nel girone dei Champions, con grandissimi allenatori e con grandissimi campioni, quindi rispettiamo al massimo a loro, però noi credo che siamo sulla strada giusta, con la giusta mentalità, potremmo andare a San Siro a fare una bella prestazione. Così Diego Milito. Intanto vi do sempre in cronaca in diretta il terzo gol del Parma, lo segna Reginaldo, dunque Parma che conduce 3-1 a Mantova. Più tardi avremo altre voci da ascoltare anche sul versante Milan, altre dichiarazioni di Mourinho che dice: mi sto italianizzando, la formazione non ve la do, vi dico solo che domani Julio Cesar torna in porta al posto di Toldo che abbiamo fatto con la Nortosis. Avrete capito che sono abituato a sorprendervi, da Obinna a Roma, a Toldo appunto in Champions League, eccetera eccetera. Magari farò qualcos'altro, insomma, non dalla formazione José Mourinho, ma insomma ce ne faremo una ragione. Certo è che non gioca Cambiasso e che comporre il puzzle di centrocampo non è semplice di questi tempi, nemmeno per lui e con l'abbondanza che si ritrova. Intanto questa sera stiamo tutti aspettando di capire se la vittoria con il Real Madrid della Juventus è stata, come dice Buffon, un brodino, o se invece, come dice Ranieri, è stata la vittoria della svolta. Lo dirà probabilmente il derby. Magari ce lo dice anche Marco Ansaldo, inviato della stampa e collegato con noi. Ciao Marco. Ciao, ciao. Brodino o svolta? Ma io andrei piano a parlare di svolta, perché credo che la Juventus abbia dimostrato di avere dei problemi strutturali abbastanza evidenti e quindi non credo che sia bastata la perdita contro il Real Madrid, che tra l'altro mi ha lasciato abbastanza perplesso come qualità, a segnare la svolta. Ci va qualcosa di più, ci va innanzitutto un buon derby e poi ancora magari un paio di partite in campionato per dimostrare che c'è quello, che il valore della Juventus è un valore della squadra di alta classifica. Oggi leggevo un'intervista sulla Gazzetta ad Ancelotti, no? Si parlava di Ranieri, domanda alla Juve, criticano Ranieri, risposta: sa qual è il problema? Dica pure Ancelotti. E Ancelotti che risponde: a Ranieri sta succedendo quello che è successo a me all'inizio della stagione, a Spalletti, a Prandelli, a Mourinho dopo la sconfitta nel derby. Un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei un coglione. Tutti parlano di calcio e credono di poterlo fare con competenza, ma io prendo per buone le parole del mio maestro Lidl. Ricordati Carletto, mi diceva, che di calcio ne capiamo in pochi. Aveva ragione il grande Nils. Tutte queste sono parole di Ancelotti riportate in questa intervista. Io trovo un distinguo tra la posizione di Ancelotti ma anche di Spalletti, di Prandelli, ma a maggior ragione di Mourinho, e quella di Ranieri, Marco. La differenza sta in ciò che c'è dietro, cioè nel gruppo Juventus. Continuo a pensare che ci siano dei problemi, che quel gruppo, al di là della vittoria con Real Madrid, non sia poi così compatto, e continuo a pensare che la società, in questa novità che è la crisi, questo mostro che è la crisi, e che la nuova società Juventus non ha mai affrontato, non stia andando un po' a tentoni e giorno per giorno nel buio. Sì, comunque se fosse così non sarebbe la colpa di Ranieri, quindi Ranieri avrebbe assolto, perché questo è naturale, che sta lavorando in una situazione molto difficile, il che è parzialmente vero. Io penso che comunque ha ragione Ancelotti, che di calcio ne capiscono in pochi, e tra l'altro non tutti fanno i tecnici, anzi non tutti quelli che fanno i tecnici probabilmente ne capiscono, ma io credo che ci sia una differenza, è tutto giusto quello che dici tu sulla Juventus. È una società che è stata rifondata partendo da gente che di calcio obiettivamente ne capisce poco, cioè l'unico che può avere qualche competenza è Alessio Secco, che però è un manager ancora direi in formazione, un po' certo, come pretendere che Giovinco oggi risolva tutti i problemi della Juve. A questo si aggiunge, anzi forse proprio per questo, si aggiunge secondo me una scelta sbagliata del tecnico, nel senso che il tecnico di una Juventus che aveva in società pochi diciamo competenti di calcio doveva essere veramente uno con una marcia in più, uno capace anche di ad esempio sul mercato di dare delle liste chiare e di dare delle indicazioni precise su che tipo di squadra voleva, e soprattutto dando un tipo di squadra adatta per lottare al vertice. Invece mi risulta che le disposizioni di Ranieri siano andate nel senso di una squadra che secondo me non è all'altezza di chi vuole tornare ad essere ai primi posti. Parlandoci chiaro, se tu hai già Sissoko, l'ho già detto mille volte, non devi andare a comprare Paulsen, se vuoi certo, fare una squadra certo, una squadra di grande qualità, vai a comprare un centrocampista di tipo diverso, e così via. Questo non è stato fatto. Io a Ranieri non do tanto delle responsabilità su quello che è il comportamento attuale. Mi è sembrato un po' confuso nell'inizio, ho visto formazioni cambiare in maniera piuttosto strana, assetti cambiare in maniera così vertiginosa, un po' sclerotica. Però secondo me la responsabilità di Ranieri è di non aver dato un'impronta di una squadra che vuole tornare ad alto livello. E con il calcio che c'è in giro oggi, e ti dirò che ho visto Real Madrid l'altra sera, ne sono sempre più convinto, non è che serva poi avere di nuovo 11 fenomeni certo, per certo, diventare diciamo una squadra che lotta per lo scudetto, c'è talmente poca roba in giro che una squadra appena di qualità e guidata in maniera brillante secondo me può fare qualcosa. Credo che la Roma ne sia l'esempio lampante, la Roma ovviamente delle ultime stagioni, non di questa balbettante certo, insomma. Mentre sempre in prospettiva derby c'è anche la faccia granata della medaglia, il Toro fin qui triste, De Biasi a rischio di esonero, non ricordo francamente quale sarebbe il numero dell'esonero di De Biasi nei suoi andirivi. Credo che sia andato via tre volte sostanzialmente, cioè, comunque questa sia la terza volta che viene, quindi Toro fin qui un po' triste in questa via di stagione, anzi parecchio triste. Sì, decisamente, e devo dirti che questo proprio, mentre per la Juve avevo immaginato, ti dirò che già anche dall'anno scorso pensavo che fosse una squadra con dei problemi, che quest'anno si sono acuiti, del Torino pensavo che fosse una squadra non da grandi posizioni, ma comunque che potesse starsene abbastanza tranquilla, anche perché secondo me Amoruso e Bianchi, almeno per come l'avevo visto nella sì, Regina sì, mi sembravano veramente una coppia come poche squadre di medio calibro sì, sì. oggi hanno, e invece evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Hanno cominciato benino, poi adesso stanno andando veramente, veramente male. Credo che De Biasi sia così sul punto del licenziamento se le cose non vanno bene. In settimana so che Kairos è molto arrabbiato col mio giornale perché abbiamo scritto che Donadoni è stato contattato e così via. Vorrei ricordare che Kairos era quello che a febbraio giurò sulla testa dei suoi figli che non avrebbe mai più richiamato De Biasi, quindi insomma siamo sempre lì. Siamo sempre lì e quindi ben venga anche la rabbia, però mi sa che la soffiata sia corretta, altro che forse si è arrabbiato proprio per quello. Marco, volevo chiederti ancora una cosa, invece tra calcio e gossip sull'argomento della settimana, ovviamente Beckham, il Milan ha capito molto prima degli altri come si fanno i soldi anche senza Champions, ma l'aveva capito, io scrivendo due righe ho ricordato un episodio molto lontano di un mondialito in cui il Milan fece giocare, mondialito tra l'altro trasmesso da Mediaset, eravamo all'inizio degli anni 80, in cui il Milan pensò di far giocare Cruyff, che molti non lo sanno, ma per un tempo di una partita di un mondialito ha vestito la maglia numero 14 del Milan. Al di là di questo episodio che poco c'entra se non sul fiuto rossonero, oggi Ancelotti ha detto: beh, Beckham, sono contento che arrivi, anzi mi piacerebbe venisse a tempo pieno, penso però che insomma possa essere più utile a lui il Milan di quanto non possa essere Beckham per il Milan stesso, funzionale alla mia squadra. Tu come valuti questa mossa? Io sai, sono sempre piuttosto drastico nei miei giudizi, me ne scuso anche con i tuoi ascoltatori, oltre che per questa mia voce, che non perché ho già gridato nel derby, ma perché mi sono preso l'influenza, si è abbassata in maniera dolorosa. A furia di andare in giro sui campi esatto, di tutto il mondo. Torno a dire, Beckham, io l'ho sempre considerato uno dei più sopravvalutati giocatori del calcio di tutti i tempi. Sì. Cioè, lo ritengo sostanzialmente un uomo di spettacolo prestato al calcio, sì. Un discreto giocatore, ma io, tanto per restare in Italia, penso che, non so, Causo e Claudio Sala ne valessero 20 di questo Beckham. Quindi, secondo me, ha ragione Ancelotti, penso che serva più il Milan a Beckham che non viceversa. Per il resto, devo dire che sono molto contento di questa scelta. Perché dimostra che il Milan prosegue con questa operazione fiducia nel paese, sento dire in giro che bisogna guardare con fiducia a una crisi finanziaria, economica, eccetera, e mi sembra che portare Beckham e spillare ancora dei soldi della gente per andarlo a vedere sia un'operazione di grande fiducia nel fatto che gli italiani hanno ancora molti soldi. Marco, grazie. Figurati, buon ciao. Lavoro, grazie, ciao, ciao. Grazie davvero a Marco Ansaldo. Palla ovale. Tra le nostre divagazioni vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, se volete intervenire fino alle 18 siamo qui, messaggi 349 238 6666. Mi è passata la ridarola dopo quanto detto da Marco Ansaldo, ho cercato di farmela passare ma non è stato facile. Adesso vi do di nuovo i parziali dai campi di rugby, partite che si stanno chiudendo e con questi risultati quasi finali, insomma, visto che manca pochissimo alla conclusione delle partite. E abbiamo l'Over Maccari Parma che sta perdendo adesso con largo margine sul Femici Zeta Rovigo 13-30. Casinò di Venezia 29, Cammi Calvisano 10, è il risultato a sorpresona della giornata, quindi Montepaschi Vedana 17, Futura Park Roma 12, Treviso a fatica, molto a fatica sul campo dell'Almaviva Capitolina, ancora 3 punti di margine, 21-18 per i capolista trevigiani, già che ci siamo e siamo in tema di aggiornamenti, prima di tornare alle voci, all'argomento Beckham, magari per farvi sentire un altro paio di cose. Poi parleremo anche della stagione dello sci che è iniziata a quarto posto per Denise Carbon stamattina a Sölden, dove l'anno scorso era iniziata la sua grande cavalcata, quindi medaglia di legno giù dal podio. Domani tocca agli uomini e tocca a Mölg, sempre a Sölden in Austria. Questo parliamo dopo, e parleremo anche di Fragomeni, fresco campione del mondo dei massimi di pugilato, ieri a Milano. Dunque, parziale in Serie B, Vicenza 1 Sassuolo 0, anche qui siamo vicino alla fine delle partite. Impresa della giornata quella di Caputo, giocatore del Bari che ha segnato una tripletta e il Bari sta conducendo 3-1 sul Grosseto. C'è il pareggio dell'Ascoli con il Cittadella, con Luci che porta in parità il conto dei gol dopo che aveva segnato Iori su rigore. Avellino Frosinone 0-0, cambia tutto rispetto all'aggiornamento precedente a Treviso, vi avevo lasciato con il Piacenza che vinceva 2-1, a Treviso adesso invece vince il Treviso 3-2, dunque frittata completamente capovolta. Il Livorno di Acori mette al sicuro il risultato con il Rimini, di cui Acori è ex allenatore, è stato una lunga storia con il Rimini dalla Serie C fino a campionati di vertice in B. Ebbene, dopo Rossini segna Tavano, Livorno grandi firme e 3 punti che sembrano in banca. Terzo gol del Parma ve l'ho dato, di Reginaldo a Mantova, quindi Parma che conduce 3-1, va di pari passo la partita di Modena, in questo caso conduce il Brescia, 3-1 ha segnato Baronio al 19° della ripresa, Salernitana 2, Ancona 1, Triestina Albino Leffe è invece ancora sull'1-1. Ma vorrei tornare a voci di oggi, di conferenza stampa, perché ha parlato anche Ancelotti naturalmente, e ha detto qualcosa sull'arrivo di Beckham, sentiamo anche Ancelotti. Può giocare centrale nel nostro sistema di gioco oppure sul centrodestra come centrocampista. Non avrebbe nessuna controindicazione. Credo che a livello emotivo dà sicuramente tanto entusiasmo, perché è un giocatore molto importante, è un professionista molto serio, non è che ha espresso la volontà di potersi allenare con voi, visto che c'è la possibilità di un tesseramento, perché anche se a breve termine credo che sia utile averlo a disposizione, perché potrebbe, siccome che ha grandi qualità, potrebbe essere utile in alcune circostanze. Credo che non ha nessuna difficoltà, perché il calcio, nel calcio inserirsi in un gruppo si fa molto in fretta, perché il calcio è una lingua universale, quindi non avrebbe nessun tipo di problema. Credo che tutti siamo contenti che possa stare con noi per qualche mese, non vedo proprio nessuna controindicazione. No, credo che il Milan ha, diciamo, da tempo scelto una linea sudamericana, brasiliana in particolare, e anche perché credo che i giocatori inglesi bravi se li tengono le squadre inglesi, diventa difficile andare a concorrere da un punto di vista economico contro una squadra inglese in questo momento, quindi portar via i giocatori bravi dall'Inghilterra è difficile. E allora li si fanno transitare dagli Stati Uniti, come nel caso di Beckham. Di Beckham ha parlato oggi anche, hanno parlato tutti questa settimana anche troppo, però un argomento è, se non propriamente calcistico, almeno divertente. Allora sentiamo anche Mourinho. Non abbiamo stato insieme nella Premier. La sensazione che io arrivo alla Premier è la sensazione che lui va a Real Madrid. Non è giocatore di aver lavorato nello stesso campionato di me settimana dopo settimana. Lo conosco personalmente, ma non aver giocato nello stesso campionato. Se vivi a Milano è un piacere per me. Se lo incontro in Milano è un piacere, perché è un ragazzo molto educato, molto, molto tranquillo, un vero piacere se lui viene a Milano. Come giocatore, ovviamente, è bravo. Dopo, se va bene per lui, se va bene per Milan, se Carlo è contento, se Carlo non è contento, se questo non è problema mio. Naturalmente, comunque, se lui incontra in giro per Milano, lo saluta e magari vanno a pranzo insieme, così come hanno un appuntamento con Mourinho, ha un appuntamento con Beretta Barnetta, leggevo. C'è questo pranzo o cena in ballo che verrà offerta dal milanese simpaticissimo Mario Beretta a José Mourinho, magari per appianare quanto successo dopo Interlecce, con le parole velenose in quel caso, non troppo educate di Mourinho nei confronti di Mario Beretta. Comunque Beretta ha detto: lo invito a cena, offro io menù risotto con l'osso buco e cassuela, quindi Mourinho si prepara anche il digestivo. È finita invece, torniamo invece a Parma, dove è finita la partita Overmacari Parma Femici Zeta Rovigo, poi vi do anche tutti gli altri finali. Fabrizio Furlotti, è finita come? È finita, direi, in modo abbastanza clamoroso. Il Zeta Rovigo ha battuto l'Overmac Rugby Parma per 30-20. Come vi avevo accennato nel precedente collegamento, la partita era in bilico proprio sul risultato, abbastanza incerto, però il Rovigo sembrava più convinto. Così è stato, il Parma ha tentato di attaccare da tutte le parti, ma il cinismo e l'aggressività difensiva del Rovigo è stata veramente magistrale. In un attacco della Rugby Parma è bastato un piccolissimo errore, da solo ha fatto tutto il campo da solo, ha depositato la palla in mezzo ai pali. Sono passati solo con 10 minuti e Becchetti ha ripetuto in fotocopia la meta, proprio su un attacco rabbioso della Rugby Parma, un errore, un avanti, il vantaggio concesso dall'arbitro De Santis, e Becchetti si è rifatto tutto il campo da solo, andando in mezzo ai pali tra il tripudio di un numeroso pubblico di Rovigo, che segue la squadra, insomma, in questo ritrovato entusiasmo anche di questa città, capitale del rugby italiano. Sì. Quindi 4-0 i punti guadagnati dal Rovigo, e per un risultato finale che, appunto, vi ripeto, 30-20. Sì, grande avvio di stagione. Grande avvio di stagione per Rovigo, che fa un altro risultato importantissimo sul campo di un Overmac che è una delle candidate serie per i playoff. Io ringrazio Fabrizio Furlotti e vi do gli altri risultati dagli altri campi: Casinò di Venezia, Cami Calvisano 36-17, Montepaschi Viadana, Futura Park Roma 17-12, quindi Almaviva Capitolina, Benetton Treviso 18-21. Questa è la giornata del rugby. Palla ovale. Prima dell'uscita del pugilato, altro giro di parziali in Serie B, sempre immutato il vantaggio del risultato di Vicenza, col Vicenza che conduce 1-0 sul Sassuolo, sempre Bari 3, Grosseto 1, quindi il Cittadella ha segnato di nuovo ad Ascoli con Meggiorini, cioè prodotto del vivaio interista, ed è in vantaggio 2-1 ad Ascoli. Avellino Frosinone 0-0, Treviso Piacenza 3-2, ha accorciato il Rimini con vantaggiato 2-1 a Livorno. Rimangono sull'1-3 le gare di Mantova Parma e di Modena, Modena Brescia, Salernitana 2, Ancona 1, ovviamente giocata ieri Triestina Albino Leffe 1-1, così come giocata ieri Empoli Pisa 0-3. Prima della fine della trasmissione vi darò i risultati finali. Dunque, tra sci e pugilato adesso, perché è iniziata questa mattina a Sölden la stagione dello sci con il primo gigante femminile. Ricorderete che un anno fa, proprio a Sölden, l'ho detto prima, Emanuela Mölge aveva iniziato, anzi Denise Carbon, scusate, aveva iniziato la sua cavalcata vincente, 5 successi e quindi titolo mondiale di specialità. Oggi è andata decisamente meno bene rispetto all'anno passato. Ebbene, Denise Carbon è arrivata soltanto quarta in questo slalom gigante di apertura della stagione. Ha vinto l'austriaca Katrin Zettel davanti alla finlandese Tanja Putiainen e l'altra austriaca Andrea Fischbacher. Dunque questo il primo podio, giù dal podio Denise Carbon. Domani tocca agli uomini, anche lì caliamo un asso che è quello di Manfred Mölg. Proviamo a sentire cosa dice Mölge alla vigilia di questa apertura mondiale, cosa ha detto al nostro Dario Ricci. Sono molto contento, diciamo, hanno fatto un grandissimo lavoro sia qua in Europa che poi siamo andati in Sud America, come gli anni abbiamo lavorato molto bene, sono stato giù un mese, tanto quest'anno diciamo, ho cambiato anche materiali da fisso, sono andato rossi, per quello ho avuto tanto da testare e sono molto soddisfatto della forma attuale. Vediamo, ecco, partiamo domenica, vedremo un po' in che forma siamo, se subito va bene, però sono molto fiducioso e per quello ho anche lavorato bene, ecco, vedremo. C'è la Coppa di Speciale da difendere, quali possono essere gli avversari più pericolosi che possono insidiare il tuo trono nello speciale? Ma credo che come ogni anno, diciamo, intanto la Coppa mi dà molta forza, sapere che adesso ce l'ho qua a casa, per quello sono già di nuovo carico per la stagione che sta davanti, ecco, e vedremo, ecco, credo che siano tanti, ecco, tra un Reich, tra gli stessi della mia squadra che io ho visto molto, molto in forma, tra un Ligeti, un Grans, con molta gente che può andare forte, però penso che sono io quello che quest'anno è lì davanti, saranno un po' loro a guardare, per quello vedremo, ecco, la cosa sarà un po' diversa degli ultimi anni, però per me questo non è che cambia tanto, proverò a essere il più veloce possibile dalla partenza all'arrivo, come ogni anno, in ogni gara, per quello vedremo. Questo è Manfred Mölg, parliamo di sci, parliamo di pugilato, non possiamo che farlo con Dario Puppo. Ciao Dario, buon pomeriggio. Dario? Dario Puppo forse non è ancora... Sì, no. Ci no, sei? No, ti sento benissimo io, Carlo. Ah, spero di sentirti bene anch'io, Dario. Ok. Il primo contatto non è stato incoraggiante, speriamo. Dario, partiamo da questo quarto posto di Denise Carbon a Sölden. Ovviamente con le immagini dell'anno scorso ancora stampate in testa, una medaglia di legno che non ci lascia proprio soddisfatti, però insomma è solo la prima. Allora, a mio avviso l'anno scorso c'era stata questa novità, più di una novità legata ai materiali e soprattutto alle piastre che stanno sotto gli scarponi, che hanno un po' rimescolato le carte. Allora lì il talento di Denis Carbon ha avuto il sopravvento. Adesso che è passato un anno con questi regolamenti che sono stati introdotti, tutti, soprattutto quelli che hanno grandi disponibilità economiche, hanno potuto testare molto i materiali. Era da 6 anni che l'Austria non vinceva al femminile sulla ghiacciaia del Rettenbach, chiaramente ci tenevano a farlo, anche se non potevano schierare Marlies Schind, peraltro specialista più dello slalom che del gigante. Quindi io credo che la concorrenza quest'anno per la Carbon sarà maggiore, potrà essere anche maggiore in casa, anche se Manuela Mölge, che sembra essere la prima indiziata, ha francamente sbagliato la prima, perché ha sbagliato proprio subito nella prima manche. Comunque io credo che insomma davvero ci sarà ancora la chance per lei di difendere il titolo della coppetta di gigante. Insomma, cambia poco, è chiaro, partire subito bene dà una grande attenzione soprattutto mediatica, certo. E quindi ti mette nella strada giusta, però la Zetter è un gran talento, l'Austria ne ha tanti da poter spendere e oggi ha speso il suo. Invece abbiamo sentito prima Manfred Mölge, come lo vedi domani in gigante? Cosa può fare in gigante quest'anno? Cosa può fare soprattutto nella difesa del titolo di slalom quest'anno? Allora, dovrà essere molto bravo secondo me a non farsi ingolosire troppo dal tentativo di guardare alla polivalenza, cioè sì, essere molto concreto, guardare alle sue due specialità, anche perché quello che ha fatto lo scorso anno perdendo sempre punti in gigante e in slalom è qualcosa di forse irripetibile, perché sono le due specialità, soprattutto lo slalom, dove capita di sbagliare di più. Anche il super G è un'altra specialità dove si può sbagliare, perché non si può provare la pista alla velocità della gara, ma sono cognizioni. Io credo che se parte da questa base può giustamente provare, soprattutto per la super combinata e la combinata, provare anche la velocità. Io credo che mi ha sorpreso un po' il fatto che abbia voluto cambiare i materiali dopo una stagione di quel livello, insomma solitamente non si fa, però l'ha fatto con grande sicurezza, questo dimostra grande maturità nel modo di vedere di Manfred, quindi io sono molto fiducioso e credo che potrà fare ulteriori miglioramenti in gigante, però a mio modesto parere domani il favorito non è Manfred Mölge, ma è un signore che ha vinto la scorsa Coppa Generale. Sì, penso che su quel nome siamo tutti d'accordo. Con Dario Pupo però voglio parlare anche di Giacobbe Fragomeni, da ieri sera campione del mondo dei massimi leggeri. Dario Ricci ha visto questo match, lo ha intervistato appena sceso dal ring, parole molto intense, lo sentiamo subito. Giacobbe Fragomeni, grande impresa stasera, veramente eri il migliore su quel ring. I match si fanno in due, è stato grande anche lui. Giacobbe, a chi la dedichi questa vittoria? Ai genitori che non ci sono più. Quanto vale questo mondiale per il pugilato italiano? Spero che valga molto, spero che valga veramente molto. Che apriamo i battenti qua nell'Italia, cioè che continuiamo a difendere e andare avanti bene. Dal punto di vista tecnico, che match è stato? Come dice il mio meccanico, mani su, vai avanti e mena. Mani su, vai avanti e mena. Dario, una storia molto pugilistica questa di Giacobbe Fragomeni, che arriva in cima al mondo a 39 anni, una vita difficile, segnata da grandi errori, da grandi sofferenze, una storia molto pugilistica, ripeto. Hai detto bene, hai riassunto bene proprio questa vita emblematica della box, tra l'altro molto soprattutto italiana, perché in questo momento al di là di coloro che hanno vinto le medaglie a Pechino, Russo e Cammarelle, non abbiamo tra l'altro giovani talenti da insomma, proporre per alternarsi e raccogliere anche l'eredità di questi veterani, perché i migliori pugili che abbiamo al momento in Italia hanno più o meno l'età di Giacobbe Fragomeni, io penso a Gianluca Branco che ne ha 38, ma ce ne sono altri della sua età. E lui ha dovuto aspettare veramente tanto per arrivare a questa consacrazione, in una categoria di mezzo, perché non è nei massimi né i medio massimi. All'angolo ha per me il numero uno pound for pound in Italia come uomo d'angolo, insomma anche Salvatore Cherchi che riveste vari ruoli, sì, è uno molto bravo in questo. Giacobbe ieri a mio parere ha offerto una grandissima prova proprio di cuore, perché non era partito bene. Nella prima ripresa Krai aveva subito messo a segno diverse combinazioni e poi è uno che fa male, la mano pesante. Ha saputo subito reagire nella quarta ripresa. Io pensavo che chiudesse il match perché in un paio di circostanze proprio ho visto molto passivo il suo avversario, il cieco, su, dopo una serie di colpi messi a segno da Giacobbe, che invece forse gli è mancata lì un po' di energia per chiudere. Poi il pubblico per un attimo, quando il match è stato fermato, aveva capito il contrario, cioè che avesse perso Fragomeni, perché le regole della box dicono che se dopo la quarta ripresa completata il match viene fermato per una ferita, si va alla lettura dei cartellini. Ovviamente certo. Fragomeni, che dalla quinta ripresa alla settima era in svantaggio e quindi stava crollando il mondo. A noi invece purtroppo, Dario, sta scadendo il tempo e dobbiamo rimanere in tabella di marcia, non nessun problema. Comunque torniamo a parlarne domani di sci, senz'altro, di Fragomeni magari, perché comunque quello che ha centrato è stato un gran risultato. Io ringrazio Dario Puppo, così come ringrazio Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunta in regia. L'appuntamento con A Tempo di Sport è per domani. Buona serata a tutti.